GR24, il sole 24 ore. Inchiesta sul G8, nomi eccellenti nella lista di Anemone, Berlusconi fuori dal governo che ha sbagliato. Indicazione dall'esecutivo, le regioni che hanno sforato sulla sanità dovranno alzare le tasse, tra queste Lazio e Campania. Mezzo milione di persone a Fatima per la messa del Papa, no ad egoismi di razza, dice Nazione e Ideologia. Si apre il Salone del Libro a Torino, ospite d'onore l'India. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura di questa edizione le novità in arrivo nell'inchiesta sul G8, oggi una raffica di smentite dopo le indiscrezioni pubblicate dai quotidiani. Diego Anemone, l'imprenditore al centro dell'inchiesta sugli appalti per il G8 e altre grandi opere, aveva una lista segreta di commesse e ristrutturazioni. Indiscrezioni giornalistiche pubblicate oggi su vari quotidiani riferiscono che nel computer sequestrato al costruttore sarebbe stato trovato l'elenco delle commesse degli appalti ottenuti tra il 2003 e il 2008. Anemone avrebbe eseguito lavori non solo nelle case di VIP potenti, ma anche in alcuni dei più importanti palazzi della politica romana. Nella lista comparirebbero anche la sede della Protezione Civile, del Ministero del Tesoro e due locali di Palazzo Chigi. La Procura di Perugia indagherebbe su una lista di 450 nomi, tra cui politici, registi, alti funzionari dello Stato, come Ercole Incalza, ex braccio destro di Lunardi al Dicastero delle Infrastrutture, che si è già dimesso, e vertici delle forze di polizia. Il signor Anemone non mi ha fatto alcun regalo, ha dichiarato il vicepresidente del CSM Nicola Mancino, il cui nome è emerso dalla lista. Stessa cosa hanno dichiarato il regista Pupi Avati e l'ex ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio, il quale si è detto sorpreso, ha ammesso di abitare in via Sistina a Roma ma in una casa in affitto e che i lavori di ristrutturazione li ha fatti il proprietario di casa. Riguardo al capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, indagato per corruzione, che già aveva svelato l'esistenza di un contratto di consulenza ottenuto dalla moglie per il rifacimento dei giardini del circolo Salaria Sport Village di Anemone, sarebbero emersi altri due incarichi svolti dal costruttore per conto dello stesso Bertolaso. Intanto, nell'ambito della stessa inchiesta, Claudio Scaiola ha deciso che non deporrà domani davanti ai PM di Perugia. Secondo il suo avvocato Giorgio Perroni, l'ex ministro verrebbe sentito senza rispetto delle garanzie difensive previste. Inoltre, sempre secondo Perroni, Perugia non sarebbe competente perché i fatti sono avvenuti a Roma e Scaiola dovrebbe essere giudicato dal Tribunale dei Ministri. Adriana Fracchia, GR24, il Sole 24 Ore. Naturalmente, oltre alle smentite, ci sono anche reazioni politiche, su tutte quella del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, non è una nuova tangentopoli, spiega il premier Silvio Berlusconi riguardo alle inchieste sugli appalti per il G8 in una cena con alcuni imprenditori ieri sera a Palazzo Grazioli. Il governo è solido e va avanti, dice Berlusconi, si tratta di vicende che riguardano singoli, fra l'altro tutte da dimostrare, non possono quindi indebolire il governo. Berlusconi però avverte, se dovesse emergere che qualcuno ha sbagliato, ne pagherà le conseguenze e la pena sarà quella di uscire dal governo o dal partito. Tra le indiscrezioni trapela anche la delusione del premier nei riguardi dell'ex ministro Claudio Scaiola, che si è rifiutato di andare dai magistrati. Ma dietro l'ottimismo di Berlusconi c'è anche la paura che l'inchiesta si possa allargare, che questo sia solo l'inizio, e secondo alcune indiscrezioni Berlusconi starebbe pensando anche ad un appello al leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini. Riguardo poi alle polemiche con il presidente della Camera Gianfranco Fini e al nuovo strappo di Fini, Berlusconi rassicura: i numeri in Parlamento ci sono nonostante le prese di distanza. Infine il fisco. Per Berlusconi per ora non ci sarà una riduzione delle tasse, ma solo una semplificazione nel pagamento delle imposte, perché non lo consente la congiuntura internazionale. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Nel frattempo, proprio sul fronte fiscale ci sono problemi per alcune regioni. Quelle che hanno sforato sul fronte della sanità potrebbero essere costrette ad alzare le tasse. Cattive notizie per i cittadini di Lazio, Calabria, Campania, Molise e Sicilia. Per loro potrebbero esserci nuove tasse in arrivo. Il governo ha infatti chiesto a queste regioni con i conti della sanità in rosso di aumentare i tributi in mancanza di un piano di rientro dal deficit. I governatori di queste regioni, insieme a quello dell'Abruzzo, che però è stato escluso da eventuali incrementi, erano stati convocati questa mattina a Palazzo Chigi per fare il punto sulla loro situazione. Un consiglio dei ministri al quale non era presente il premier Berlusconi, rimasto a Palazzo Grazioli per una lieve indisposizione, è stato quindi presieduto dal ministro per i trasporti e le infrastrutture Matteoli, che ha annunciato il via libera da parte del CIPE a un corposo programma nel settore delle infrastrutture, 11 miliardi di euro di investimenti che, ha detto, contribuiranno in modo significativo alla ripresa economica del paese in un momento di difficile congiuntura economica. Alessandra Schepi, CGR 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora ci spostiamo, andiamo a Fatima, dove una folla immensa sta accogliendo il Papa, che ha da poco parlato in diretta da Fatima, l'inviato del Sole 24 Ore, Carlo Marroni. Carlo. Sì, buongiorno. Davanti a 500.000 persone, forse anche di più, questa mattina Benedetto XVI ha ribadito un concetto lanciato due giorni fa, che rivoluziona uno dei capisaldi del pontificato precedente, e cioè che la profezia di Fatima non si è compiuta, e ci saranno ancora guerre e terrore, mentre, come è noto, la precedente interpretazione era stata circoscritta al gravissimo attentato Giovanni Paolo II. Questo è un passaggio che lascerà una traccia per il futuro. Oggi, questa mattina, il Papa appunto ha voluto ribadirlo davanti a una folla immensa, favorita anche dal giorno di festa dato a tutti i dipendenti pubblici dal governo socialista, che ha così appunto dato una mano alla grande riuscita di questo viaggio, che si sta rivelando un momento forte per il pontificato di Benedetto XVI, che ha ribadito anche basta ai gretti egoismi di nazione, razza e ideologia. Oggi potrebbe tornare a condannare le nozze gay e la legge sull'aborto che è stata recentemente introdotta qui in Portogallo. E per ora è tutto, lì nello studio. Grazie dunque a Carlo Marroni. Noi ci spostiamo e andiamo a Milano. Si parla molto in queste ore del futuro della città, vediamo se riconoscete questa voce. Magari lui dice una battuta, questa battuta poi comincia a dirla tu fuori, poi se viene fuori una cosa talmente importante, per cui a un certo punto io potrei anche essere responsabilizzato e dire beh, poi. Naturalmente quella di Adriano Celentano alla domanda se si candiderebbe a fare il sindaco della città. Oggi sul Corriere della Sera un manifesto per Milano, sottoscritto da molti tra intellettuali e giornalisti, tra loro c'è anche il nostro Salvatore Carruba. Salvatore, buongiorno. Qual è il senso buongiorno a tutti. Qual è il senso di questo manifesto? Ma il senso del manifesto naturalmente tiene conto un po' del dibattito che si era svolto nei mesi precedenti sul Corriere della Sera, è quello di capire se quella che una volta si chiamava con un certo orgoglio Società Civile di Milano sia capace di indicare dei temi concreti di riflessione sui quali poi si possono elaborare delle politiche, perché molto spesso Milano si lamenta, però altrettanto spesso non è capace di dare una direzione politica a questo lamentele. Quindi questa iniziativa del Corriere mi pare utile, perché quantomeno ha raccolto idee che sono quelle alle quali abbiamo partecipato appunto noi, e cerca su questo di arrivare a delle proposte concrete, il famoso decalogo che oggi viene presentato. Salvatore, secondo te la città risente di un'assenza della politica? Beh, certamente Milano ha sempre avuto con la politica un rapporto strano e un po' ambivalente, cercava di farne a meno, però anche c'è stato sempre un legame forte tra le istituzioni e la società e la popolazione, anche proprio questo si vedeva nelle grandi scelte della città. Quindi il fatto che la politica troppo spesso appaia un po' poco ambiziosa, un po' anche lontana da quelle che sono le attese, anzi timori anche della cittadinanza, sicuramente hanno conosciuto al dibattito politico, che secondo me si è molto immiserito in questi ultimi anni. Grazie dunque a Salvatore Carruba per essere stato con noi. Noi ci spostiamo da Milano ad un'altra città del nord, Torino, e andiamo al Salone del Libro, che si inaugura oggi in diretta dai nostri studi al Padiglione 2. C'è Paolo Piacenza. Paolo. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Dalle 10 di questa mattina la 23esima edizione ha preso ufficialmente il via con l'inaugurazione ufficiale, presente per il governo il ministro del welfare Sacconi, insieme ai vertici delle istituzioni locali, tra cui il neopresidente della regione Roberto Cota, che è arrivato un po' in ritardo. Paese ospite di quest'anno è l'India, mentre il tema scelto è la memoria, con un momento forte dedicato ai 150 anni dell'unità nazionale, che traguarda già l'edizione del 2011, di cui l'Italia sarà il paese ospite protagonista assoluta. Quanto ai numeri, l'edizione appena iniziata punta a tenersi sopra quota 300.000 visitatori, in linea con gli ultimi anni, ma sentiamo cosa ci ha detto il direttore del salone, Ernesto Ferrero. Ormai abbiamo raggiunto da qualche anno una velocità di crociera. Viaggiamo sui 300.000 visitatori, quest'anno ci sono 1.400 espositori, poi ci sono moltissimi editori e agenti letterari stranieri che vengono qui e trovano già un'agenda di incontri preordinata. Questo è un lato meno noto, ma assolutamente molto importante. Il ministro Sacconi ha messo l'accento sull'andamento del settore editoriale. L'Italia, ha detto, è il settimo mercato librario al mondo. Qui però Sacconi ha ricordato la necessità di rafforzare l'export e soprattutto di cogliere le nuove tecnologie come occasione di sviluppo. In chiusura ricordiamo che Radio 24 è presente con i propri studi al padiglione 2 del Salone, accanto alla Sala Blu, da dove trasmettiamo una serie di trasmissioni in diretta. Oggi alle 14 in diretta dal Lingotto a Tempo di Sport, alle 17 Focus Economia, alle 18.30 alla Zanzara. E dal Lingotto è tutto. Grazie dunque a Paolo Piacenza in chiusura di questa prima parte. Restiamo in Piemonte, ma per parlare in questo caso del Giro d'Italia, tappa di oggi da Novara a Novi Ligure, se non erro Dario Ceccarelli. Gli italiani sembrano andare molto meglio delle attese. Sì, è stata una bellissima rivelazione. Siamo partiti con un Giro d'Italia che partiva dall'Olanda, tra l'altro, che sembrava così il manifesto del peggio del ciclismo. Improvvisamente ci ritroviamo con tre italiani nelle prime tre posizioni di testa: Nibali, Basso e Agnoli. Ma il problema è un altro, è che siamo riusciti proprio nella prova più difficile, la cronosquadre, cioè ieri, ad essere i migliori, che di solito la cronosquadre è un esercizio non adatto agli italiani, nel senso che gli italiani di solito sono portati all'individualismo, eccetera. La cronosquadre è proprio un complesso equilibrio di gioco di squadra. In questo caso siamo riusciti a fare il gioco più difficile del ciclismo, cioè a correre tutti a grande velocità con la stessa intensità. E Nibali, che è questo ragazzo di 25 anni siciliano che adesso guida la classifica, è l'altra bella rivelazione, perché non doveva neanche venire al Giro, ha sostituito Franco Pellizzotti che era stato fermato per questioni legate al passaporto biologico, per cui è così una ventata d'aria fresca in un mondo che soffriva parecchio e che quindi aveva bisogno di questa ventata. Le 13 e 17 minuti, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato dell'inchiesta su G8 e grandi eventi, della nuova lista di nomi che emerge da indiscrezioni giornalistiche, della reazione del presidente del Consiglio. Abbiamo parlato di Fatima, del mezzo milione di persone a seguire la celebrazione della messa da parte del Papa, e poi abbiamo parlato del Salone del Libro di Torino. Adesso apriamo la pagina economica. E lo facciamo con il bollettino mensile della Banca Centrale Europea, che lancia un monito ai governi comunitari. Bisogna intensificare gli sforzi per risanare i conti. Il rischio per Francoforte è quello di dover ricorrere ad aggiustamenti più elevati in futuro. Sentiamo. L'economia europea è in bilico tra una ripresa internazionale piuttosto dinamica e un indebitamento della zona euro che potrebbe frenare la congiuntura. Nel suo bollettino mensile pubblicato oggi, la Banca Centrale Europea rivela che negli ultimi tre mesi gli economisti di mercato hanno rivisto a ribasso le loro previsioni di crescita nella zona euro, dall'1,2 all'1,1% nel 2010 e dall'1,6 all'1,5% nel 2011. Anche la crisi finanziaria e le perduranti tensioni sui mercati potrebbero pesare sulla ripresa. Il momento è particolarmente delicato, tanto più che la BCE ha annunciato qualche giorno fa di voler acquistare titoli pubblici pur di calmare la volatilità. Gli acquisti verranno sterilizzati per evitare che siano inflazionistici. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E intanto si riacutizzano le tensioni sociali in Spagna e Grecia come risultato dei piani di austerità varati dai governi. Oggi il premier iberico Zapatero incontra i sindacati. Sentiamo. Reducir las retribuciones del personal del sector público. Il giorno dopo il piano lacrime e sangue varato da uno Zapatero sempre più in difficoltà sul fronte economico interno, è l'ora della verità per la Spagna, chiamata alla prova della coesione sociale. Nel primo pomeriggio proprio Zapatero incontra i sindacati della UGT e di Comisiones Obreras, che non pronunciano ancora apertamente l'espressione sciopero generale, ma hanno già promesso una risposta all'altezza dei tagli. Sicuramente porteranno in piazza i lavoratori, ma come e quando resta ancora da definire. Per Candido Mendes, Fernandez, segretario generale della UGT, a pagare sono sempre gli stessi, ma soprattutto resterebbero a rischio, nonostante il piano di austerità, il recupero dell'economia e il tasso occupazionale. La crisi in Spagna fa sempre più il paio con quella greca, dove i sindacati hanno già annunciato una nuova astensione generale dal lavoro per il 20 maggio. Oggi la disoccupazione ad Atene ha fatto segnare un nuovo record, 12,1%. Anche in Portogallo, intanto, il governo annuncerà oggi nuove misure per ridurre il deficit di oltre un punto percentuale. Si parla già di una tassa anticrisi che dovrebbe prevedere un aumento del carico fiscale per le aziende pari al 2,5% e una riduzione del 5% negli stipendi dei politici e dei dirigenti pubblici. Pure la Francia intanto sta seriamente pensando di risparmiare sulla spesa sociale, mettendo mano ai cosiddetti crédit d'intervention destinati ad assegni familiari, aiuti ai redditi bassi e sussidi ai disabili. È da questo bacino che il premier François Fillon intenderebbe attingere per recuperare 6 miliardi di euro in 3 anni. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. Restiamo in Europa, ma andiamo in Inghilterra, dove oggi ci sarà la prima riunione del nuovo esecutivo. Per il nuovo primo ministro conservatore, David Cameron, è il momento di passare ai fatti, o come dice lui, al cambiamento sismico nel panorama politico. Oggi a Downing Street, prima riunione della sua squadra di governo, che vede 5 Lib Dem, i ministeri come Affari, Energia e Capo del Tesoro, oltre ovviamente al vice primo ministro Nick Clegg. 17 invece i ministri Tory, con 4 donne, tra cui Theresa May al ministero chiave degli interni e la baronessa Worsley, la prima musulmana ad entrare in un consiglio dei ministri britannico. Priorità, risanare l'economia, dicono i ministri, ma l'impresa è ardua, con la finanziaria d'emergenza che deve essere varata già a giugno per dettagliare i piani sulla riduzione del deficit record di 163 miliardi di sterline, l'11% del PIL. Il primo test per la tenuta della coalizione sarà proprio concordare i 6 miliardi di tagli alla spesa previsti per quest'anno. Oggi, prima decisione dei ministri, la riduzione immediata del loro stipendio. All'orizzonte anche un possibile aumento dell'IVA, una tassa sui profitti delle banche e un nuovo tetto sull'immigrazione. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra. E torniamo alla cronaca italiana, lo facciamo con la conferenza stampa che c'è stata questa mattina subito dopo la scarcerazione di Stefano Gugliotta, il ragazzo malmenato dai alcuni poliziotti subito dopo la finale di Coppa Italia Roma-Inter. Ci colleghiamo in diretta con Maria Chiara Grandis, che ha seguito la conferenza stampa per noi. Maria Chiara. Sì, buongiorno. Stefano Gugliotta ha da poco lasciato lo studio dei suoi avvocati, dove con i genitori e la fidanzata Flavia ha tenuto, come dicevate, una conferenza stampa, e questo il giorno dopo la scarcerazione avvenuta perché è caduto il quadro di gravità indiziaria, dicono i giudici. Stefano zoppica, gli manca un dente ed ha il naso gonfio e anche le occhiaie, dice di aver dormito solo 3 ore questa notte. È stata una conferenza stampa per ringraziare gli autori del video dove si vede il poliziotto che lo colpisce con un pugno la sera del 5 maggio dopo la partita Roma-Inter, ma una conferenza stampa anche per raccontare quello che è successo. Il carcere è terribile, ora voglio dimenticare e tornare a lavorare. Io non ho fatto nulla, dice Stefano, che resta comunque indagato per resistenza pubblica ufficiale. Abbiamo fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura, aggiungono però i genitori di Stefano, che hanno ricevuto scuse telefoniche da un funzionario della polizia. Ricordiamo che per i fatti di mercoledì scorso resta dunque indagato anche un agente che avrebbe riconosciuto il proprio errore, spiegano legali, che smentiscono anche i precedenti penali di Stefano citati ieri dal ministro Vito. È incensurato, dicono, e da Roma è tutto, linea a voi. Grazie dunque Maria Chiara Grandis. Quasi più un caso politico che un caso cinematografico, parliamo di Dracula, il film di Sabina Guzzanti. Oggi la prima proiezione a Cannes, ci colleghiamo con l'inviata del Sole 24 Ore, Cristina Battocletti. Allora Cristina, com'è andata? Sì, è stata appunto la giornata di Sabina Guzzanti, come dicevate da voi in studio, oggi al 63esimo Festival di Cannes, che ha appena presentato fuori concorso alla stampa internazionale il suo Dracula sulla ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo del 2009. La sala era completa, c'erano applausi alla fine, qualche risata durante i momenti comici e diversi giornalisti che intervistavano gli spettatori all'uscita. Diciamo, Sabina Guzzanti ha moltissime richieste di interviste dalla stampa estera, oggi ha incontrato quella italiana che è al di diniego di Bondi di venire a Cannes per protestare contro il suo documentario, ha risposto: Bondi non era mai stato invitato a Cannes, la sua presenza non era prevista e non ha nemmeno visto il film. Provo una profondissima vergogna per la figura che ha fatto fare al nostro paese. Sugli sviluppi invece dell'indagine di Anemone emersi ieri, ha commentato: mi era accorta che c'era qualcosa di anormale sulla struttura della protezione civile già a luglio 2009, quando non era emerso ancora nulla delle indagini, bastava fare qualche domanda. Berlusconi ha detto: siamo solo all'inizio, bisogna investigare. Oggi invece inizia il concorso con il film del francese Amarric e del cinese Xiao Shiwai. Vi restituisco la linea. Grazie dunque a Cristina Battocletti. Siamo in chiusura e parliamo di calcio, della finale di Champions League sabato 22 maggio a Madrid tra Bayern Monaco e Inter. E caccia al biglietto: 20.000 italiani disponibili per l'Inter, di cui 5.000 in vendita libera sabato alle ore 11 a Milano presso la filiale della Banca Popolare di Via Massaua. Già si preannunciano migliaia di tifosi in coda fin da venerdì sera. Dario Ricci ha intervistato il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi. In effetti l'organizzazione non è naturalmente della prefettura, ma è della, diciamo, dell'Inter e soprattutto della UEFA. Poi naturalmente la strategia di vendita è stata quella di scegliere di dare 10.000 biglietti attraverso dei pacchetti a prezzo garantito e controllato, e poi la restante parte, gli altri 10.000, sono 5.000 a vendita libera, altri 3.000 vengono diffusi attraverso i canali fidelizzati, quindi gli interclub, e poi ce ne sta una quota restante per le esigenze della società. Però entrando stamattina in qualsiasi bar di Milano tutti dicono: tanto io vado lì alla filiale alle 18 di venerdì, mi accampo con la tenda e mi metto in fila per il biglietto. Ma guardi che bisogna anche veicolare questa informazione, che i 5.000 biglietti messi in vendita attraverso l'agenzia della Banca Popolare di Via Massaua, il primo giorno, il sabato, è destinato esclusivamente come precedenza agli abbonati e agli interclub. Considerando però queste limitazioni, i potenziali acquirenti sono 142.000. È una situazione che vi crea problemi di ordine pubblico? Sicuramente abbiamo predisposto e pianificato dei servizi, attorno all'agenzia. Probabilmente può darsi pure che l'annuncio sia superiore alle effettive attese. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Fabio Cantadori. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.